Aspetta, buffetto confitto. Buffetta. Luca, a ci sei? Ehi, grazie, a ci sei, a ci. Ehi, aspetta che sto spostando questo. Aspetta. Hai visto a ci sei? Deve essere una canestrina. Già, non li riparava. Lui. Ma come si fa a pulire il culo? Non aveva le pabbine di nulla. Davvero, che schifo, gamba. Ma chissà che ti venne solo in salsa di pesce così. Ma non solo i subissini, quello di chi si negri, chi si altri di chi. Se si può che quando passavo con bandana, andava a travagliarsi, va via che a travagli di chi, salsa di pesce. Tu mi hai passato di me, chi sa le roba di cani e gli assimilia. Era una cosa finta, era. Finta? Cosa hai detto? Ho detto che era una cosa finta. Finta? Non lo so, ma... Allora, chi si dà l'erba, l'ho messo nelle guarnizioni, tutto canto, mi fissamento al sole, via via in mano, e gli vi la veranda. Prima mi piglia la miscela da un carburatore, e vabbè, mi ha detto che ho smontato, ho guardato le guarnizioni e una l'avevo messa a rufficio. Vabbè, l'ho messa a posto. Tutto fatto, da poi mi ne brincate questa mollettina dove c'è la levettina dell'aria ed ero mezzo la secchella e vabbè, la già avuta e ce l'ha ripiazzato tutto bene, pongo pure la candela nuova cupola da stamani e vabbè, ando a provare a fare la buona in moto da mia figliola. Come te l'ha girato un po', ha divisato, è morto. E ho visto che ne stava fuori uscendo miscela dalla parte della marmita. Mi sa che ho girato la scatola, l'ha giunto 30 minuti, poi ti ha girato prima di se lo posso furare dal quarto via. E ce l'ho portato via in officina. C'è pittare un capo, ma mi ha murato, un fiato di miscela mi ha tuntunato. Ma non è che per caso gli è uscito il cicleto? Che se riempie troppo in fretta, quello tu va a tirare pure, la benzina va direttamente nel pistone e poi dal pistone purtroppo la brucia va a finire nella marmitta. Grazia, se tu fai così a pizzai, che cosa si fa di tutti? Cioè, sputavo il carburatore e vedevo chi è. Poi sicuramente dalle preparazioni si è mollato la gicle. Ma cosa ne gioco? Prima perdeva il carburatore, vabbè, stavo dicendo. L'ho piazzo tutto, c'è la guarnizione a rovescio, l'ho messa, invece di metterla girata, l'ha girata, vabbè. L'ho girata perché ho guardato il sito su internet come faceva, lo stesso carburatore, e l'ho fatto uguale a quello. Bene, mela. Una volta che ha piazzato tutto, andava a pompare la miscela e non tirava la miscela dal serbatoio la bollicina dove gli dai l'anticipo, no? Che va cosa va? E ne ha giurata di multa. Ha fatto tutti i vivi, e non vira nulla. Lo torna a piazza, prova a pompare e pompava. Dice, può diventare. Oh. A un certo punto, dopo che l'ho ripiazzato tutto quanto, che ho trovato la mollettina e tutto, a lungo che appena appena ha giunto ne farà dalla miscela uscita dalla parte della marmita. Ma cosa si è buccata questa cosa? Boh, non so, in garage se la mangia. Ma è stato così come tu, cammina più cattivo, da davanti all'11 mesi, no, e posso fare un po', ce l'ho portata in officina. Ma grazie, purtroppo quando hanno questi problemi, cosa succede? Che bisogna controllare anche il carburatore, bisogna smontarlo e vedere, perché di solito si riempie troppo, quando tu vai a tirare va a finire nel pistone e poi siccome non la brucia, non ce la fa bruciarla, va a finire la marmitta, quando tu tiri c'è la benzina della marmitta, magari c'è il gigle bollato, con la gazzata ti fa magari 50 euro. No, che già lo conosco da quando è nato lì, che sono mancato quei figli. E lì nella Butti, di fronte dove c'era o c'è il supermercato, o c'è quel palazzo, dove c'è quel negozio di mobili, appena più lì, c'è quel cancello sulla strada. E l'ha giusta di tutto, anche macchine, fa anche il meccanico. E vabbè, ma l'ha portato là. Boh, te lo controllo, poi ti dirà cosa c'ha. Già mi chiama per dirmi cosa va, se voglia farlo o non voglia farlo. Già no, se per quello che mi avvisa, non è che piglia rubati. Lui guarda cosa c'è e me lo dice, capito? Capita, ti gioco di zen, ma tutto là del gabbo su bianco bucino su di miscela a me. Allora va finito, ma lava tutti in terra, chi ne farà da buco in terra? Poi non c'ho la comodità, ero su una pedalina in basso, in terra, mi viene i mari. Lì ci vuole un tavolo dove la fuggi sopra e tutto. Non posso travagliare in terra, mi fa se venire un nervoso a me quando posso le cose russi. Il garage. Questa recadente la cassa da fusti. Beh, che lì non fa affare, sì, cazzo, non vai bene di chi si delinquenti, cazzo, cosa mi bongo in garage. Qualche volta che ho fatto qualche cosa lì, stati a fare una cena, si aggenni, abbai denni, ma non fa, in garage, manco bar idea. Ma c'è luce e acqua? No, c'ho la luce e l'acqua, cosa me ne fossi, già me la volevo mettere, ma vabbè, di te cosa cazzo me la bonga qua? E ora mi lavo, la macchina è in mezzo alla meccia, no, manco per... Perché è tutto pieno di siringhe, nonostante che davanti tutto il pezzo mio, mia figlia lo spata e ci butta la mondetta di davanti alla serranda. È tutto mondetta, è pure una lavatrice che ha butto un buco, in fondo, nell'angolo. Roba vera, materassi, pezzi di mobili. È un mutinaggio e lui. Ma carità, va. Mi abbiamo dato un rispetto, va, allucinante, va. Ma mica sono tutti questi mesi, te li riduci si garage, anzi, c'è quello più giù del mio, e la paura brutta, buco a farabili, è peggio del mio. E il mio tanto quanto ogni tanto ha le vostre volte si imbecille e ne raccoglie se bisogna qui. Ma però non vuole che può cercare sempre a bagliare a fare che non fa. Bisogna pure che ti venire da fuori e la canna di tutti in terra se non è un plus. Un periodo era un tipo, un gnazzantadì, un marrano, di chissà che la parava, parava a far anni di la massa, non il buzzolino, il buzzolino da... No, ma c'è un gnazzantadì, una montagna, non c'è più venuto, però. Ma c'era un periodo che passava ogni marrano, a preso il comodo in casa sua, non aveva. Ho capito. Che c'era un periodo che ci scendeva questo tipo di una manzana e ci faceva la cagata in poche parole, era preso in andare via. Era una montagna remessa, e là giù d'intanto ma non l'ho mai visto. A chi si lo vedeva si parlava con un macetto e ne rimostrava un capo. E meno male poi non c'è più venuto, ma nell'angolo di fronte al mio garage, all'altro piano, c'era una montagna di merda di quello. Grazie. E che poi ti comprometti, capito? Buona cagata. Ma non l'ho mai visto, a chi un mese di mangiare mi invisava a posto, mi puniva il bacone, senza farmi venire a vedere chi cazzo era questo. Non l'ho mai visto, qualche uno parava dall'altra parte e non lo veniva io. Se ne andasse che si faceva i batti giù e se ne andasse, non è compreso. Ma i chimi, vabbè i chimi, pure i loghi da variare più di siringhi. E fare ad esempio di creaturi, ma facci la belozza. Ma per carità, ma chi lo crema? Mica sarà un 5 mesi fa o sì. Mia figlia come stava pulendo, ha tirato un calcio alla siringa e l'aveva buccato un dito e tutta l'ambulanza e non bisogna pigliarla. E l'ultima analisi se li ha fatti il mese scorso. E lei preso un po' così di nappa analisi per tenersi sotto controllo, ma non male già non gli ha fatto niente. Ha buccato la scarpa da tennis, mio. frontalmente, come gli ha dato un calcio per buttarcela da, dall'altra parte, e gli si è picchita invece i 30 la volta. Un casino, grazie, un casino grande grande. Uia, boh, questa gente come fa a vivere così? Io non lo so. Ah boh, io gli ho giudito, cazzo, dai sempre bigliato a recupero, che ha bisogno di vedere così di una patente, e chi era vicino alla serranda, e beh, aprivi la spostavi con i piedi, senza tirargli i calci, gli mettevi il piede sopra e la facevi stracciare. Una volta che aprivi ti pigliavi la scopa e ce l'ha accudito, in ora amara. Sì, ma non ti puoi compromettere, no? Non ti puoi compromettere. Lo so, è un casino. Oh, ma lo sai tipo il tino che l'hanno chiamato carabinese, il cintino, che non c'è l'indice, noi non possiamo fare niente. Purtroppo la strada è libera e loro dove si trovano si fanno e noi cosa li possiamo fare? Non possiamo fare nulla, a meno che non vi fanno un torto o qualche dispetto e siete sicuri che è lui, che avete di Simone, allora sì, però di questa maniera non li vuole fare un capolo. Lo so, però il discorso è che se tu magari fai di tanto con un colpo di macchette, no, la se ti stai compromettendo, ma lascia di qua, poi i crepiali. Oh, la pena che ho preso, quindi so se il minimo varranno 10, 20 voci, ma non crepiali. Ma tutti i volti, sai quanto ce ne sono un paio, scendono un sacco di volte durante la giornata. Cade mai non crepare. Sì, ma futti la seiva, ma poi ti passi di pezzi, cazzo, ti bruciare la macchina. Ehi, adesso da chi ci deve aspettare di tutti, sono una massa di coglioni, so. E alla nipote di mia moglie le ha trovato incendiata e me l'ha cubiato, ti l'ha detto che si è camato, i ghibi mi, sopra le scale, vicino dove sei tu, nuovo l'ha fatto. E chi l'ha picchiato? Il nipote di mia moglie le aveva bruciato la uno, e la uno bianca. Ah, l'appunto. Sì, grazie, gli ha bruciato la macchina, e beh, l'ha picchiata, e beh, comunque sembra la macchina gli ha bruciato. Beh, intanto mica l'ha data, non gli ha dato niente, non solo che tutti i volti non vedi chi giova se si fugge, a chi l'ha promesso un itagato di greve, e chi giova non vedi fuggi, a chi gli è più mancante dietro, tutti i volti non vedi chi lo greva. Luca, mangiando sta? No, sono qua, grazie, no, stai parlando, non ti ho sentito. Ho detto che mica gliel'ha pagata pulizia, cubiato gaia, l'ha cucciolata da Zusa e l'ha detto tutti i volti, tagate e mi dice a strada che ti grido. E chi tutti i volti, lo vedi, da lontano c'è strada, o vi basta più. Vabbè, però è un brutto oggetto, dai, no, cioè si buia lì la macchina, lascialo scherzare. No, a chi sa tutti qui, l'hanno mandato, l'hanno pagato, no, e l'ha portato fuoco alla macchina. Però l'ha detto che, no, ve l'ha detto che l'ha mandato, capito? Vabbè, non ve l'ha detto, però alla fine io dovevo essere senza macchina. Ma poi da lì va se sei sempre fatto. Vabbè, tanto si la devi lampare, era sempre fasciata, era sempre raccolta a conta. Veniva una che si filmava, tanto se la doveva cambiare, un'altra seconda mano, poi la seconda mano. Già camminava, però era sempre barrata, cattedina sta pulsi in alto, ma gliela avevo scesa io in campagna, quella macchina. Senza assicurazioni, se invece l'aveva parata io in campagna, per impararlo, no. Dopo che l'ho imparato, il lutturino di campagna già se l'ha messa, si è fatto l'assicurazione, capito? E già la stavo usando. Però sai cos'è, grazia? Che è un gesto molto, molto brutto, molto bruciato la macchina. a chi se non sappia cosa fa? È agiroso. A chi? A chi? Parzialità. E vabbè, comunque dopo già l'ha cambiato casa, infatti avranno poi più in occhi. Sì, glielo sapevo, poi glielo scopri chi è, però non è sempre, cazzo, lui conosceva gli anni bruciato 4 macchine. No, lei già l'ha cambiato già, però ha tagliato la goccia. Dai, no, che non vuoi più. A chi l'ha minacciato, compreso. E dato su fuoco la marcia, e chi tiene di tagliare il capo? È sparito. Ma uno che conosco io, cazzo, 4 macchine gli aveva incendiato già. L'ultima macchina gli aveva incendiato una... Ma che macchina era? Una... Quella che c'ha una multipla. E anche qui vicino a uno l'hanno incendiata per sbaglio, però l'ha cubiato e l'ha corso la macchina, l'ha fatta accusare la macchina, l'ha compito. Ha sbagliato macchina, Guido, a chi era precisa. Ah, è sbagliato Barso la Russia. Ehi, no, il tipo di ma... Ehi, la persona, il padrone, chissà che abbia buito poco, noi la di chi si doveva incendiare. Chi si rimette più delinquente di chi su, l'ha cubiato l'indomani, ma a te. Allora, ha buttato la macchina, ero qui ci... Beh, magari i bagagli, no. Si è pure scusato, perché erano uguali le macchine, tu si credeva che la chissà che doveva incendiare, invece noi la chissà. Grazie. Casino, è un casino. Ma fatene ricchippo, fatene. Dai, appena poco gente malata del capo, è di pittosa. Per carità. Lo so. Basta, ragazzi. Stavo facendo un gioco, ma nulla. Non riesco a... Ho fatto anche il coso con quella pomata, niente, quella crema che mi faccio, che mi metto di comprare con lo spray nuda. Ho fatto anche quello per usare per fare l'aerosol nuda. Ma non è che fa l'aerosol nuda, o il pompino al naso e ti fa così. E si può fare già un po'. Mi pare strano, anche tu la tira abbassato. E perché non te la fai fare una visita? Avvicinate, è brutto, cosa bruttissima. Ma guarda che anche il polline adesso, è il periodo, non sta mettendo a testi, e si è presa a fenni luci. E dice, ma non dico di giunto, non pare di due fare, mi ha dato le sarra, tutte e due. E il polline, adesso è la primavera che fa così. A me la sa di, oggi comincia a dare un'andata di turrudi, ha detto, ma ciao, e invece dal polline, infatti non mi so cacciare il baghissu. Ma grazie, ve lo dico io, poi mi è passato, non è che c'è, l'ho avuto già altre volte, e me l'ha passato con il rilassino, con... Prova a farti fare l'impegnativa, ti fai fare gli anali, ma le provette a vedere a che cosa sei allergico. Te lo fanno subito e ti dicono tutte le allergie che potresti, che ti danno fastidio, dai, in poche parole. Poi te l'ha fatta e gli fa allergia. Le piante dell'ulivo, certi fiori, un sacco di cose comunque. L'erba non so cosa è erba, sono rubiagumi, ti provoca allergie. Ma di vari tipi l'allergia ti può pigliare pure a grattà, a mangiarrui. Vedi, è secondo che al tipo di allergia c'hai, non puoi prendere neanche medicine. Lo so, dovrò farlo, grazie. Allora, finisco questi lavori, perché fare l'impegnativa e vado, dove teniamo lavoro, capito? Vedi a cosa sei allergico. Almeno se vedi, sai a cosa sei allergico, magari sei allergico a una pianta, ai vegli. E non vi basti, cerchi di evitare quei puzzi. C'è anche, ti dice anche che sei allergico, dipende da quello che mangi, pure, ma capito. E allora le eviti di mangiare, non è solo la primavera, sono un sacco di gocci. Ma c'è la polverina bianca lì, è troppo brutto, sì, troppo, perché mangiando faccio fatica, se ne vuoi un po' in bocca devi ripirare. Già lo so, a capita a me, prima da ripirare la bocca a bicchia, e spesso me lo vende un tempo, più appunto che vanno maniachi, e mi dà già fastidio, è un casino quando respiri male, non lo dico a me, certo, burrusieu, prima di andare all'ospedale, anche se aprivo la bocca a fare così, a respirare con la bocca, sì, l'aria entrava ma non si varava nel polmone, a chi mi si era chiuso, capito, mi si è chiuso un polmone a me. Sì, ho capito, casino, grazie. Casino, aiutami a aprire la bocca a ripirare e curi i cannetti di ossigeno. Si è sarrato non penetra aria, capito? Vabbè, me l'hanno risolto con i medicini adatte, è risolto, però è sempre malato, non è che mi l'hanno curato, non è che non si può curare da me, perché è cronico. E la di che si buttureggia mi dici ciao. Lo so, vabbè, dove va, purtroppo è gusti, ma vabbè, la fatta mi durava tipo una settimana. E tu ti fai quell'analisi, almeno sai almeno di cosa sei allergico, un sacco di cose ti fa allergia. Anche roba magari che va in casa, magari in casa della Marina, in casa tu, dipende un sacco di cose. Paoletta quando li ha fatti già da poco di cose critiche, a che cosa è allergica, ha un sacco di cose. Io per dire, i dopo barba che usavo prima, quelli all'alcol, quelli che ti bizzicheggiano un bel, quelli non li posso usare, ma le batto la faccia, pare un mostro. Tutto rugge, tutta mancia, un fiato da burro. Infatti non ne uso più. Ce li ho buttati quelli che c'avevo. Devo usare quelli senza alcol. Tu dici qua che buffa. Tu riesco qua che ha soffiato, non ci vedo. E tu, poi accusi le gocce di... Tiro spruzza, tieni un po' la testa alzata. Ti rimane un po' la testa alzata e ti metti le gocce a vedere se ti aiuta a partire un po'. Se mi tiro una slippata, grazie, vediamo un po' se mi si libera un po', perché così non posso stare, allucinante. Ma la testa tienila inclinata dietro un po', spruzzati il ghiaccio, tanto da vedere intendi la cacciura, lo trattieni e ce lo scarraci, come faccio io. Gianni Mari! Sto bisese! Sto re! A chi sei? E tu a chi sei? E io lo sapevo, mi dici! Un moschino sì! Un rometto! Sì, che hanno mai? Gianni Maria è lo stesso, mi sa bene la TV e una recci mi dai in occhi! Sì, uia uia! E cosa mi fa, grazia? Ma per carità, oggi mi sono svagato un po' con quel vecchio spugliatore, alla fine di tutto mi ha rotto le palle, la boccia c'è in officina, sennò si è chiuso dal balcone. Che cosa vedda? Che te ha un drappetto da auto? E invece su Manzano sono andato a pigliarmi l'appuntamento, ma facciamo un medico diabetologo. E mi era arrivato anche a dicembre. E a chi ti hanno dato? A degli peli? No, ma non me la mento più che faccio. Comunque è maschio, al Palazzo Rosa. Ma non sarà che ci va giù io, no? Che vai tu, dimmelo, passo pure che ti riesci a dirtiro. Aspetta che non me la metto, no, degli peli è quello che c'avevo prima. Com'è che si chiama Paolo quello che c'ho adesso? Il diabetologo mio, a te lo ricordi il nome? Aspetta che guardo nel foglietto. Ah, dottor Bianco si chiama. No, Edo, chi sei Spano? Dottor Spano. No, dottor Bianco, prima c'avevo degli figli di butto d'ora. Se ne è andato lo so uni, dove ha durato un po' di un anno, invece non è rientrato ed è rimasto questo, sempre di Porto Torres, questo vecchio. Ma lì al Palazzo Rosa ce ne sono parecchi. Quando vado alla visita, anche nella porta a fianco c'è una donna, nell'altra porta di fronte c'è un altro diabetologo, e mi pare che sia dottor Spano. Di fronte al numero 3, il numero 9 lui. Ho chiesto se c'era una donna per... se puoi avere una dottoressa. Invece mi ha detto che non veniva a Rugu, vi agitava manco un anno e mezzo. E ha detto, catta, a marito si prenda questo qua, poi vedremo. Tu vedi, capito, perché lui guarda il compito e riepilogo di cosa hanno scritto quelli là, ha capito. Grazie, io... Arrigo, devo fare 10 giorni prima, devo fare tutte le analisi che mi hanno scritto e poi gli devo portare tutti i documenti che ho. Gli devi portare la documentazione come sei in cura con questo che c'hai adesso, capi? Anche il libretto dove registri le glicemie, tutto lui deve arrigare. Che tipo di visita ti ha fatto quello, ti ha fatto fare quello là, tu lo devi arrigare tutto a chi, in base a chi si controlla cosa ti ha fatto fare, cosa non ti ha fatto fare di visita, capito? E che tipo di diabete c'hai, insomma tutto ti guarda. Infatti mi ha detto di arrigare tutti i fogli che ho, tutti la documentazione, la cartella. La dove segno io, c'ho un libretto, mi hanno dato, dove segno la glicemia, non solo, ossia che io scrivo a comodo mio il libretto. Adesso vuole addirittura la macchinetta, perché nella macchinetta è tutto registrato, e si piglia la macchinetta, clicca e guarda, c'è scritta la data e c'è la glicemia che c'avevo il giorno, capito? E dunque non ti puoi scrivere se ti piace il libretto. Io non ne arrivo nemmeno di questa macchinetta. Me l'aveva data così, me l'aveva data, poi non me l'ha fatto più foglio per prendere le strisce e quindi ho lasciato stare. La macchinetta la devi richiedere lì, se ti si rompe o se no periodicamente, io una volta all'anno gliela chiedo, non vogliono neanche la vecchia, gliela chiedo e me la danno nuova, è anche più moderna. Perché d'anno a anno ci ammali sempre queste macchinette, capito? Poi varia, comincia a variare. E mi pare che ne due o tre arrivati, però sono variati già, da. Perché sempre qualcosa di nuovo c'è nelle macchinette. Ma a me non mi sirvi. Vedete che non mi sirvi di farmela io. Che già ero quasi normale, quindi non ero... Se fossi che prendevo insulina, allora sì. Siccome insulina non ne prendo, non mi tocca. Boh, eppure mia sorella prende la pastiglia, prima faceva le pastiglie, poi gli faceva l'insulina, poi adesso di nuovo le pastiglie e la macchinetta gliela danno lo stesso. Boh, non lo so, è meglio così, amaco, la controlla già a Edo direttamente che hanno, coso. Devo portare le tutta la documentazione. E tu portali tutto quello che c'hai di quel diabetologo, delle visite che hai fatte, perché loro li controllano, capi? E si basano su quella documentazione lì e poi una volta che sei con lui confronta, capito? Ehi, Arugrigo. Ah, ma così viaggio di bassa visita. Viaggio direttamente la prenotazione mi danno. Certo, non devo stare a telefonare io e tutto quanto. No, a me il diabetologo me le fa lui le impegnative per andare a fare le visite. So io poi telefono solo da casa, manco quando è a Rubù. Telefono da qui e mi danno l'appuntamento quando devo andare. E secondo quando me lo danno gli dico, non ha portata se no è a va. Ah, tanto devo andare per dire fra 6 mesi dal diabetologo. E allora loro guardano, me l'hanno fino avanti, capito? E intanto da qui devo andare dopo 6 mesi dal diabetologo, dunque a voi hai tempo. Grazie. Tutto un gioco e tutto deve ricomandare Edi. Meglio così. Ehi, esci a vedere Luca se si è ripreso. Ah, ci sei. Ui, ciao Tore, ma cosa hai ripreso? Ebbene, non ha funzionato neanche un pochettino. Hai messo la testa in su e sei rimasta la testa in su. Ehi, già l'ho fatto, ma dopo l'ho fatto. Poi io... ma poi sono di polvere oggi, mascherina non è bu, ti mettevo una mascherina di chi si da 13 un poco ti riparava, se no ti ci filavi dei pezzi di cotone nel naso. La mascherina e poco ti riparava, non so cosa più uguale. E provato a buffare, a tappare un naso, a buffare con un naso, così con il naso tappato a vedere. Oh, tappato, tappato. No, tu non fa. Ma noi magari, il dottore se è andato, magari ha bisogno di antibiotici, Una roba, vivo. Cosa? Una bomba, vivo! Oggi tutta la limpida, ha preso il suo cavolo del cespugliatore, qua c'è un fianco a pizzi, un fianco sinistro, perché ero sempre in piedi, mi inchinavo, a chi mi la via in terra, è nata una pedalina, si travaglia un bel gusto in mare, e gli stati alza in Cina, alza in Cina, compresi. Alza in Cina, e chi la buccia è andato? Ehi, che mi piegavo, mi abbassavo, mi tornava a pensare di noi, mi duri. Sono così gli anni, usci? Me lo domandava. Cioè non è un diabete da insulina? No, io prendo 3 pastiglie al giorno. 2 gialle, una la mattina gialla e una la sera gialla. A pranzo prendo quella bianca. Va bene, poi se uno fa da Morello come fa Graziano, allora ciao. E come fa mia madre, lo so Graziano. A me oggi mi ha dato una pasta in frigorifero, Luca. Una bella frittella, una bella pesca. Ha detto no, non li voglio, ma forse la frigorifero. E nel frigorifero ha detto, magari me la mangio domani a mangiare un pezzo invece di mangiarmi 2 fette biscottate, mi mangio la metà di quella con il pezzo. E domenica gli ho preso un paio di paste e ho fatto il lavorello. Vabbè, io già sono diabetico, ma sta, mi proprio anche io dei calcoli, devo stare attento. Ah, dobbiamo fare i fritelli con un ricotto che ho comprato, di usilo. Oh. Prima ti rimaneavano i vasi. Vabbè, voi dimmi posso la pasta asciutta, pasta ricotta, Luca, saluti. Se no da me mi si guarda. Cosa ci dice allora? E buttare e buttare la faccia la pasta ricotta. Non ne posso mangiare, ma mi la mangia anche la giubbagata e poi c'è un bel sapore di usino. Ho preso una forma di quella ricotta e mezza formetta di quella ricotta musia, però non è salata questa, buona ritta, non ne posso mangiare io, ma gli adatti la mangio. Vabbè, gli adatti va bene, ma quando li approfitti allora non va più bene. A tutti gli altri mangiare, non solo a te, a tutti, però c'è chi può e c'è chi non può. Lo so, ma noi in abuso no, ne mangio un poco e boh. Per esempio, una rimagnata di un pezzettini di chi sa che costa muccia. C'è la gara di aprire via di mangiare, ma tutti lo capi, da dove sto qui tutta la sera in bagno, capito? E se no già me l'avrei mangiato un bel pezzo più grande. A me perché quella ricotta musa, guarda c'è all'Eurospeed. A pezzi da 7-8 euro, mezza forma. L'ha presa il padre di Maria, ma è buona, buona, buona quella ricotta musa. Qua già l'ho presa anche all'Eurospeed altre volte. No, questa lo sai dove l'ho comprata. Più giù del Barsano, a quel negozietto invece, che ci sono due ragazze. Quella roba lì è tutta roba che porta da Usilo, mi. Anche certi alcuni salumi. Anche dolci, tutta roba che porta da Usilo. E già si migliaveggia. E anche Marina va a comprare il libro di tasse. Avanti, Tore. Ah, sentite che sono ammazzando mucconi. Sei buono, lui, con la marionese. Luca, ma tu me l'hai mandato che tu tipo che ci ha fatto rubare in un butti di rivelmi, un amorso, un mozzo di fame, tu me l'avevi mandato. Sì, l'ho mandato io. Che schifo. Capita, chi c'era morendo di fame a mangiarsi i rivelmi? Chi si va a piccare da lì? Sì, nel video ce n'è solo un sacco. Oggi ho visto un video con la canna, questo tipo vicino a un molo ha pigliato un pesce più alto di dentro, sarà stato 1,70 m, 1,80 m il tipo, no? Si è parlato direttamente a muro, basta il nido, ma davanti la mano poi l'ha mantenuto bene, gli si è entrato la mano in bocca, ne ha bucato un lamo. L'anima ha fatto fare fotografie e si era scappato. Era enorme. Sono stati in video grazie quando ho pietato. Già lo so, no, quello che mi ho guardato io stamattina era di questo tipo pescando lì al molo con una cannetta. Capita una bestia di ma. Chi ci ha assicurato pranzo, cena e un poco di pesce, invece poi l'ha liberato, ha tirato, si è abbracciato lo pesce, la sera mezzo mancante, la città va, si è buttata, è nata a rumolo, invece l'ha liberato, l'ha lasciata andare, e la gente per chi gli ha fatto l'applauso, perché l'ha liberato, no? Vabbè, tu ti devi riparare. E beh, sto passando da chi tu vuoi. Sì, gatto, raggio, ma... Ma papà, già vedi, sei uscito. Te lo pongo in mezzo a un ricotto musico. Sì, sei buono, mia, raga, la grazia non si passa a russo. E allo spiedo non posso che è più buono. L'arroso legge ali, che i buoni a conserta, a dare di una china, li buoni, chi sei buono, capita sei buono, oh yeah, per carità, allora sai che c'è gente che ce li mangia, hai visto un documentario, una righi su Dippo in Chitavoressa, Luca, l'ha tracciato la corteccia pratica di un albero, e dietro era pieno di tarme. Arribigliava con un pugno e si rimagnava. Ha detto che Fabiani vitamina, non so che tipo di vitamina, li raziani contro il freddo, che ve la levi. E si la mangiate, ha mosso un vitto, si mirava la mano, una malata in bocca, pucci, e chi di tutti i brinchenni. Quello che conosci lui si era mangiato un panino, ma un vino mi ha preso, un panino con i bigattini. Con i bigattini? Con i bigattini, pucci, per carità. No, e poi video, ne ho visto altri documentari di quelli che fanno la sopravvivenza sulle isole così. Adesso accendo la stufa. E tu vuoi vedere cosa si hanno mangiato? La notte lo danno, non so a che ora. È una coppia, ammazzano una femmina, nudi, li buttano in questa isola e devi sopravvivere, ti devi arrangiare a mangiare e tutto. A via, a depurarti leva, tutto quanto là. E dove vedi cosa si mangiava? Chi tu si aveva mangiato? Burro un solico. Però la donna non ne ha voluto troppo. E poi c'è chi d'altro se l'ha mangiato, ne ha schifo. Ci l'ha brozzolito. Sì, no, sono uno dei crudi, grazie, già l'ho solo visto. Quel programma lì, per carità, che schifo. Ma tu andate, perché io non ve l'ho andato, manco un milione. Pugnamari, con tutti gli, tutto pieno di zinzere, tutti divorati, a cururu di un murello di freddo. L'ultima che ho visto non è riuscito a accendere il fuoco. Oh, grazie a te, sei a fare di un cuore. No, ho fatto pure, mi ha giovato pure, perché l'ho pizzicato con la racchetta. Ha fatto drrr. Però non so quindi se esci tu. Aspetta che accendo la sua paletta che va freddo. E va freddo ed è maglietta. Oh, siamo 3 giorni, no, così è 3 giorni che accendiamo la stufa. Sì, 3 giorni, 3 giorni a un. Io non c'è bisogno, io sono maniche corte. No, nulla, niente. No. Di solito accendevo, mi sto per farci la luce e basta, e poi la spegnevo. Dove fare, ma non c'è bisogno, già sta facendo caldo. Vabbè, grazie, fa la visita. Che è Mary? Ehi, sta facendo la stufa lui. Ore, è meglio, ci sei. Già che ammazzano il tuo accento di muccone che torna volendo. Allora, non ce l'hai quella specie di... Si farfalla che va giù, io faccio una rettina e la ammazzo lunghissima. Ehi, una racchetta va giù, che mi dà una cosa e brucia. Ah, ce l'avevo io, ma non funzionava bene e ce l'avevo buttata. La regina si l'aveva abbinata, già funziona anche quella già. Ma, forse si è ballata perché la lasciava accesa, no? Appesa. E mi ha dato ai figli, che si sono la bizzicava, andava a chiedere, trrrr. Via. Appesa la stufa. Ma voleva aggiunto il pellet. No, voleva, no, cioè, l'ho accesa poco l'altro giorno, non è sporca. L'ho guardata prima e l'ho accesa lo stesso. C'è appena il cenere nel cassettino e buh. E l'ho accesa adesso. Però gli doveva aggiungere il pellet, aprire il sacchetto e l'ho aggiunto. No, non accendiamo. Sì, ma se si pare una perfetta, è nato, lo vedo io, ieri non è acceso, si cagliava, e anche adesso io sto bene. Anzi, io no, che vedo un vacone di cucina del terrazzo, tutto imbambarriato. Vabbè, dai, pensate che c'è già freddo, se vuoi fare, calda la tua allora. E allora vabbè, pongo proprio a caldiena, a meno che non tratti una benzina chi vedi, mi sei spugliato. Ma ti faccio un capo. Intesa, cos'è che c'è di sedi, camera da letto. Ole, fatti scaldare da Graziano, che è freddo. Ha detto che siamo a Macozza e da si fa il freddo. Va bene, avanti. si può una manta, sì. alla voce la cuffietta. Luca, dovrebbe cacciato dal boscone. Mi girando intorno a me girendo. E mi girando blu. Alla voce la carabina. Chissà con un cannocchiale di dopo. E ne rurampi. Fai un gecchino. Ti apposti. Tu con poi ci avrà liberato, grazie. Ehi, tu adesso, che ora sono? 7:30, alle 8 rifalle, tieni la testa inclinata verso il su. Ma non 2 minuti, no? 5 minuti. T'appoggi rugabo così verso dietro, ti spruzzi invece un bel bocco alla barca all'altro e rimani un bel po' così, 5 minuti, là. E vedi che già ti aiuta a me con la sappatro, se fai così. Ma non posso cavare per i cammini di zia che fanno i mari. E cosa? Mari fa fica a nonna. Cosa fa di mare? Non perché se non ha mai fatto male a nessuno, né in pomata né, e né a spruzzo. Noi l'abbiamo sempre usato anche ai bambini da piccoli. Sempre glielo mettevamo. Era all'ordine di la notte, passava baletta, pittorra e verubuglia. Pure io me lo metto ogni tanto, quando mi intendo un po' con la gastrua anche che mi graffia. E allora faccio così, oppure mi prendo il miele. Sì, però non bisogna abusare, bisogna mettere 2 o 3 volte al giorno, grazie. E boh, perché la medicina, mi. Poi se vuoi fare dei risciacqui, lo devi fare con l'acqua del mare, per esempio. Che la vendo, no? E io ce l'ho, c'ho anche il colliglio che è acqua di mare, per gli occhi arrossati, eccetera, eccetera. L'altro giorno mi hanno messo 2 gocce, una goccia nuova, a chi mi l'aveva mezza annebbiati, e me li ha liberati, la vista. Poi già ne ho di quelle acqua di mare, normalmente lo sapevo pure, e già funziona già. Sì, ma se lo fai al mare, se lo zappa. Cosa? Ho detto se lo fai al mare, che tra... al mare a me capita che c'è una zappata lo stesso, anche d'estate, e con l'acqua salata te lo zappa. Già lo so, no, a me a mare mi secatrizzava se c'avevo qualche taglietto, no, me lo secatrizzava subito quando vado al bagno, quindi me la baidavo, no, e vela già la crosticina, ma proprio già ristretto mi sarà che leva salita, capito? E allora brucia e ti sarà i tagli, compreso. Già lo so, arriva un bel leva di romari, se c'hai problemi anche alla pelle, già ti aiuta già. Lo so, grazie, lo so che aiuta. E quest'anno qualche oretta già ci vado, qualche bagnetto me lo voglio fare, almeno quest'anno, speriamo. Sì, già fatta, dai. Ehi, vabbè. Solo che io non mi posso la faccia a sole, non hai compito. Però se scendo per dire alle 9, me ne dormo verso le 11, che non è quel sole caldo caldo, già andava. Quest'anno ci va, l'anno scorso mi sono andato, l'anno passato prima ancora ne manco. Sono un bello, sono come un bel poco che non ci vado al mare. Nemmeno io sono andato al mare, ma quella volta. Ma ci eri sempre al mare, cosa ci disegni? L'anno scorso. Tore, ci va al mare. Ma tu la capisci che non buccoli, eh. Tore, è complicata, va, c'è il studio da ranger, da cacciatore, binocolo, fusili, anfibi, tutta mimetica. Si è mascherato tutto di nero per non farsi distinguere, nero verde, verdastro, e si è mimetizzato Oh, i ghibi nel terrazzo dove c'è i vasi e ne si intendono mucconi. Tore! Fatti un volo! Che adesso bruciano così in pace! Di girmi con un accendino, non fidare! Non ve ne bisogno, se già bruciata la giù non te la rete. Ecco, così impara, frigidura! Luca, non vuoi in mezzo al gaggio? Oh, rigotto! Oh, la maionese! La maionese lo vuoi? A pararubane allora! Ma tu mi fai un balino, vuoi già pararubane? Ma me lo fai tu, cioè, lo fai tutto, lo fai, fai nulla! Che si la mangiare un cane si la mangiare. Che schifo, non gliela fare mangiare, che c'ha un sacco di germi quel moscone schifoso. Specialmente le mucone già calano per tutto, è peggio della mocca. Ma no, non si era mangiato, che l'ha già fatto prima io, ha già uno. Fucci, capace di mi ammaranno. Anche il cane di campagna, li vengo, quando l'ho posato, stac, gli la rugavo, ogni avosso, però non ci riescono a prenderlo. Luca, oggi secondo mi ha mangiato un hamburger con l'insalata e ci ho messo il ketchup. Come ha messo il ketchup? Quel ketchup si chiama, il ciurruglio. Ehi, a ketchup. Mio figlio rivale, Ghecci, chi si ruglio, da me viene un altro che è gialla, da me viene un'altra di colore rosa. E li vengo questi rubiori, non le mangio mai io, pucci. Quello rosso solo già mi piace, da. È buono. Dicevamo gli bruma, che la divincente si dà il bucciolo, lo voglio assaggiare. E già è buono già. Sì, sì. E prima lo mangiavo spesso, io adesso... Nine. Eppure è buono, l'ho messo nella burga. Vira giù, allicciato in alto. È come il sugo, là. Però gli dà un sapore buono, mio. Lo so. Allora spiegami biglia a me figliola, pure quello giallo, ne ha un casino di quelle bottigliette, il frigorifero. E la vedo spesso quando prendiamo, anda se ci vale che ci deve bigliacere un po'. Però io no, oggi mia chi, ha già giunto su bruva e buh. Ma c'è buono perché c'è, fai quello piccante, grazie. Piccante non è quello lì, è normale, ma sembra come il sugo, però c'ha un altro sapore. Ma non è che sono... cos'è ketchup rosso, Il barattolo è rosso, poi ce n'è uno giallo, un altro verdolina, è ben migliore che si impreati che li piglia. La freccia ha pigliato un barattolo bottarga, la gente cos'è? Pesce, pucci, a me non mi ridetti. Quello se lo grattugia sopra la pasta, sopra Romagna e si mangia. Sì, sono più cari, grazie, a me mi piace, niente. Ma io preferisco, quando faccio il panino, solo ketchup. Già rivengo che ci bandini fatemi al televisore. Una volta mi hanno detto, ti vuoi abbigliare la pizza? E mi ha detto, ma prendiamo i panini che già sono buoni lo stesso. E pigliamo un panino, ma io credevo il classico panino. Mi ha regalato una torretta, non panino. L'ubani non mi piaceva, era rotondo, molto, ma aveva un sapore strano. Era tutto a puntini che l'ubani, poi era morbido. Tre tuvera, un hamburger, insalata, bumazzo, un altro hamburger, checi, era pieno il tubanino, insomma la torretta. Ha sbagliato il piatto e me l'ha sbagliato, tutti i piatti e sta giù la patta rubare. Sai cos'è, Grazia? Fanno male allo stomaco queste cose. Ma non faceva neanche a mangiarlo, poi quel pane non mi piaceva. Era dolce, ha detto, chi tu fai schifo? Cos'è fare? Ma crubiaco nati fare nati bani? Te, ho svuotato il panino dentro le piazze e me l'ho mangiato così, il contenuto di quel panino. Però il pane non ne ho mangiato, pucci, pane. Dove sono i rabbani? E lo sai da? Tipo una focaccia rotonda, però rimaneva a cupoletta con tanti puntini e morbido morbido, e poi la dolce. Buh, che sei pari, ma con roba sopra? E Drenti l'abbiamo imbuttito, l'hamburger, insalata, tutto quello che ho fatto, fontina, aveva un sacco di impiegati. Però il pane faceva schifo, il pane per modo di dire per me non era pane. Cosa ti posso dire? E beh, domani mi cazzo in un fondo di rubiato lì giù, la mia cosa. È morbido e gonfio, alto, va, a cupola praticamente. Però vabbiamo sauri trano che sono tipo di bani, chiamiamolo così. Neanche a fianco, tipo il pane al latte, morbido così. Però non era pane al latte, perché c'aveva tutti i puntini, chissà specie di bani. Ma si chiama Mari quel pane che c'ha qualcosa sopra? Che pani vedo anche le bustine? Cosa c'è sopra? Ah, il sesamo. No, il sesamo. Ah, ma il pane integrale, dice. Questo è il pane integrale, il pane integrale col sesamo sopra. Ma può essere che era pane integrale, se una somiglianza già ce la prima. Ah, però faceva schifo, per carità. Pucci, ma chi su un pane, chi su manco bianco una di farina di grano? Beh, ce l'ho buttato, il contenuto già me l'ho mangiato, però me l'ho messo nel piatto. E mi ha rimandato con un bani normale che piglia di. E un bani faceva schifo, faccio un peso. Sì, quella specie di pane, sì, pucci, la gente infatti non me ne piglia di più, sì, la impressa di andare, non me ne va a pizza la prossima volta, mi mangio che sui venuti, va? Ma il pane come viene quello normale, poi da chibani mi faccio schifo. No, io prendo le rosette che c'è meno mollica. Prendo le rosette che c'è meno mollica. Poi le focacce, quelle tipo già batta, e il pane grosso, la pasta dura. E chi ci chiama i biazzi? E quelli sì. C'è questo pane che la domenica, se mi ricordo, quando lo prendo. Tipo tartarughine sono. No, ma le rosette da cesaraccio rimane meno mollica dentro, capite? Invece se tu pigli i panini, ne pongo un pallotto di mollica dai panini. Ah, ho capito. Vabbè. Allora, quelli che ci sono, queste tartarughe sono buone, grazie a mamma, veramente costa una cazzata, tipo tre li paghi 40 centesimi, ma sono grandi anche come panini. Sì, al negozio di grazie a lei, che ha aperto anche la domenica, ma sono buoni. Anche se li metti in freezer, poi tu lo scongeli, lo metti nel forno a microonde, hanno un gusto proprio buoni sono. Già lo prendo io, molte volte lo prendo di soprappiede e lo metto nel pozzetto quando arrivo a casa. Poi quando non ero l'epoca e si rovina, come si che l'ho appena comprato, capito? Invece poi la sera lo devi pulire, lo pongo un borro nel fornetto, lo metto e torno a mettere sempre comprato. Vabbè. No, a me è tipo quei paninetti che vendono lì a McDonald's, per carità, è buono. No, il pane di cesaraccio già è buono, solo che i pani un bel di mollica, e allora prendo le rosette, che mi piacciono anche di più, e mollica ne trovi più poco, ma un bel più poco nella rosetta. Il rubanino praticamente, quando l'imbio ti va giù, chi su capro solito, e il resto se la rilampa. Lo so, ma per questo che prendo io è buono. Ma se me ne ricordo domenica lo compro. Sore! A boh, contami là che sono buccoli. Per ammondezza è andata a finire. Certo. Ah, ma non si può fare nulla, no? Ehi, a Bacchi Giorgi in campagna c'è luce, chi ci non ha sabbiuto, c'è venta che buccio. Ehi, vuol dire che ha di fare un bel andare. Da qua si ha dato più raccio, lo sai lì. Ah, vai, hai ragione io, che vera, io me lo sospettavo, mi ho fatto la battutina, mi. Buonasera, ben sentito, già ne sai due trappole pure tu, Vai col tango! Vigna, buonasera Graziano, bisogna fare la guardia alle cornacchie. Veramente siamo in quattro. Buonasera, signor Bacchi. Sì. Cosa Bacchi? Influenzato, sì, c'era una voce molto strana. Intasato, insomma, non sono influenzato, intasato, da una settimana. Capito. E vabbè, è già apposta che lo piano. Si apposta, vero signor Tom? Sì, buonasera anche a lui. Catta, ha raccomandato da vivo per farlo entrare. Mi già fa la domanda di carta bollata, e sia carta bollata da 16 euro. Che andiamo a ah, grazie, non bisogna dirlo, mio, ne ha dato. E allora, tanto non vengo lo sportino, uno con cuore, storie. Lascia la mano, è mezza, a mondezza, è va. Lo dovevi punire la moglie, boh, diglielo tu, ma chi non è un intenditore di Mosconi. No, non c'è la moglie, no. Sott'olio, Graziacco, peperoncino. Anche. Stanotte avevamo fatto... No, stanotte no, troppo freddo. Prossima settimana avevamo fatto cena e pranzo. Un attimino al telefono. Ehi, per carità. Che ora so? Due minuti e chiudo tutto. Le 8 meno 5. Sì, infatti è arrivata l'ora del merendero, grazie. Le 8 sono arrivate. Adesso arrivano più prima, grazie. Subito l'ora di andare a dormire. Come te gli addini. No, io a dormire mi cocco mezzanotte la una, mi guardo la TV. Oh, non mi corri che ho preso io. Intanto paghisci che drommo, 2 euro e arrivi, ma con 4. La mani ero già in terra, ma da vedere. Infatti, non sanno più visto. Non trovi, stranotte non trovi, caglia i tiro. Innanzi per la notte. E non finisce una radio, attende la radio non finisce una. Nei primi vecchi tempi, a qualsiasi ora attendiva dai suoi clienti. Lo sai, non ci ho mai provato in quella cosa del telefono. A vedere se si sente qualcuno, magari lì la mattina presto si sente qualche autista. Magari lì ci sono i camionisti. I camionisti che viaggiano. Vedi, non ci ho mai pensato a accendermelo ad ascoltare la mattina mentre chi sumi, mentre mi preparo. E mi dai il manzano, lo provo a accendere, ascoltare. Vabbè che già mi guardo i primi telegiornali che ci sono alla TV. Il primo telegiornale delle 6 è fatto fuori, poi c'è quello delle 6:30 e penso voglio gli canali, vedi uno, è sempre uno diverso dall'altro. Già lo so perché già me lo guardo io la mattina, lo metto basso, abbasso la porta di cucina. A chi ha seguito malissimo, senti di la TV e nella città, e allora lo metto basso e abbasso la cucina e me lo guardo. Nel frattempo io mi faccio l'insulina, assaggio un caffè, un tè, capi? Un po' di tutto, dai, a passare l'ora, grazie. È così. Marino e Gian Maria stasera hanno fatto buco? Non sono sentito per niente, magari non c'è, magari sono invitato, No, Marino stava dormendo. Marino stava dormendo perché ha lavorato tutta la sera. Marino mi ha mandato un messaggio stamattina, una vignetta. e l'ho sentito, già l'ho salutato stamattina. Poi stasera, boh, non si è sentito per niente. E sarà tra quattro vagliando il casino. Sa dalla cucca. Vabbè là, Luca, io chiudo. Ciao Luca, buona cena, buon tutto. Saluta Marina anche da parte di Paoletta. Ciao Tore, se sei in ascolto, ritieniti tutto baciato. Ciao ciao. Andiamo insieme a caccia di muscoli. Ciao Bacchisio e ciao chi è in ascolto. Buona cena a tutti. Rilancia a te, Bacchi. Ciao Graziano, buonasera, saluta la signora, buona cena, buon tutto, a domani se coincide, anch'io adesso ho il micro in mano, vi saluto perché anch'io devo fare i lavoretti come Graziano. Ciao Tore, buona serata, saluta la signora, ciao anche a Luca, buonasera Luca, e cerca di intasarti, di pulire un po' l'intasamento. Stammi bene, a domani Luca, salutissimi, buona serata ancora anche agli amici in ascolto. Ciao Bacchi! Sì, ciao Bacchi, dai, ciao Graziano, sotto la Paoletta, c'è la parte di Marina, ciao Chiattore, dai, che sta preparando la cena. Ciao, sono tutti, ho caldo, ho caldo. Ciao, a domani. Ciao Lu, a domani, ciao To. Ok, ciao Bacchisio, ciao Graziano e ciao Luca, statemi bene, sogni d'oro. Ok, ciao. Ciao, ciao. Ciao Tore, ciao, a domani. Hola, hola, hola, hola, hola.